molto più carine coperà. Puntata numero 4 di Firenze in vacanza, vizi e virtù dei fiorentini in ferie, il programma di Radio Big World che segue i fiorentini direttamente nelle loro località di vacanza e ci facciamo la coda in auto sulla Fipili oppure ci accalchiamo all'aeroporto di Firenze oppure svegliarsi prestissimo per arrivare a Pisa, perché insomma in questo bordello noi provinciali, ma anche quelli che coi fiorentini piacerebbe relazionarsi, e però si sa, i fiorentini parlano solo tra di loro e a noi ci scacano un po', anzi è addirittura peggio essere della provincia piuttosto che essere di fuori. Ma insomma, noi per capire come i fiorentini si divertono, come vanno in ferie, come vanno in vacanze e quindi farci belli ai loro occhi e magari farseli amici, beh, abbiamo il nostro agente a Firenze, che è Laura! Ciao Giorgio, ciao a tutti gli ascoltatori. Laura, oggi gradirei parlare di montagna, perché il grande duale delle ferie, alla fine un po' come usava negli anni 80, c'era anche nei librini delle vacanze dei bambini, era mare o montagna. Di mare abbiamo parlato estensivamente, parliamo adesso della montagna. E come per il mare avevamo la scelta tra Tirreno e Adriatico, che poi abbiamo scoperto scelta non era, la montagna a Firenze si intende le Alpi, si intende l'Himalaya, oppure si intende più semplicemente l'Appennino su e giù per la penisola? Per una giornata mordi e fuggi, giusto per scappare dall'afa, possiamo sfruttare il nostro Appennino, il nostro Monte Morello, non so se lo puoi considerare montagna, insomma comunque per frescheggiare un po' in provincia di Firenze c'è questo Monte Morello, oppure anche il Monte Amiata, ecco. Ma quando parliamo della vacanza in montagna con la M maiuscola, ce ne andiamo sulle Dolomiti. Sulle Dolomiti a fare che cosa? Questa è la domanda. E in buona sostanza, se lo si chiedesse a uno svizzero che le Dolomiti non ce l'ha, cioè le Alpi, ma forse le Dolomiti confinano con la Svizzera, insomma non lo so, si chiedesse a uno svizzero, lo svizzero direbbe: ah claro, vado a passeggiare, vado a fare la scalata, vado a fare il rifugio. Ma il fiorentino è anche lui così svizzero, nel senso attivo, si muove, gli piace andare a fare le sborgate, a fare le sudate, oppure come va di moda oggi preferisce la spa, l'hotel con i massaggi, con l'animazione, non lo so, una roba un po' più pop? Fondamentalmente va a mangiare. Io vedo anche su Facebook amici che vanno in montagna che sì, possono pubblicare una bella foto delle vette, dei sentieri, delle mucche, ma poi non manca mai la foto del piatto di polenta col capriolo o del ragù di cinghiale sulle pappardelle, insomma. Oddio, meglio se la mangiata è preceduta da una camminata, una ferrata. Ci sono questi sport montani che secondo me vale la pena provare se si va fin sulle Dolomiti. Alla fine, se si deve stare a oziare in una spa o a farsi fare un massaggio o a leggere un libro, secondo me tanto vale rimanere qui vicino. Se ti sposti fino a lassù, insomma, devi sfruttare quello che la natura offre, insomma, bellissima la montagna lassù. Fiorentinamente parlando, insomma, si fa sempre i conti. Pensate, il si ottimizza, cioè te ti spenderesti non so quanti soldi di benzina e di autostrada per andare in un albergo sulle Dolomiti per poi rimanere dentro l'albergo? Non c'ha senso. Il taylorismo pretendono di averlo inventato gli americani alla Ford, in realtà esisteva a Firenze da tempi memorabili e ancora oggi si conserva, tant'è che il tonfo l'ha fatto il Monte dei Paschi di Siena e non la Cassa di Risparmio di Firenze. C'entrerà qualcosa sì o no? Ma torniamo all'Appennino fiorentino, perché va bene, c'è Montemorello, va bene, se vi spostate un po' qua c'avete il Prato Magno, anzi ci vengono molti fiorentini a cercare c'avete i funghi. Il Prato Magno, lo so, ma ci vengono molti fiorentini a cercare i funghi allucinogeni, quindi se ne trovano di parecchi. Ora sarebbe una lunga storia, ma in provincia di Firenze ci sono posti bellissimi. Me ne viene in mente uno, che è Palazzolo sul Senio. È in provincia di Firenze, ma secondo me per lo più sconosciuto a molti fiorentini, perché insomma la provincia di Firenze si estende fino all'Emilia Romagna e ci sono posti che hanno veramente poco di fiorentino. Marradi, per esempio, Palazzolo, già Marradi il nome fa ridere. Comunque sono bei posti, sono posti di mezza montagna e io l'ho, per esempio, lo conosco Palazzolo sul Senio perché ci andava una mia amica da ragazzina a fare un centro estivo, un corso di equitazione, e quindi bei posti per evadere, per insomma io non ci andrei, te lo dico, perché secondo me se devo andare in montagna vado sulle Dolomiti, se devo andare in Toscana me ne vado al mare però. Ma per un bel centro estivo ci manderesti, che so, tua figlia? Ci manderei la mia bambina, sì, una bella settimana in mezzo alla natura, a cavallo. Ma io dopo un paio di giorni mi annoierei. Però insomma non è una usanza fiorentina, in ogni caso. Hai parlato di Dolomiti più volte. Dolomiti sono Alpi, ma le Alpi le abbiamo anche in Toscana. Non saranno alte come quelle, non saranno innevate come quelle, ma insomma sono le Alpi Apuane. Michelangelo ci passava un sacco di tempo. Che se ne dice delle Alpi Apuane a Firenze? Ma Alpi Apuane è per dargli un tono, un po' di importanza. Alpi Apuane, come le Dolomiti Lucane, sai, in Basilicata ci sono le Dolomiti Lucane, okay. Ma insomma sono termini che lasciano un po' il tempo che trovano. Le Alpi Apuane sono interessanti quando sei a Viareggio, in Versilia, e vedi queste montagne dietro al mare, allora dici, vedi belle le Alpi Apuane, però sinceramente non le ho mai considerate con troppa curiosità, sarà un mio limite. Sono delle località molto belle per chi ama la montagna, cioè fare ferrate, per chi ama i sentieri più difficili, però effettivamente non hanno quella risonanza anche solo turistica che ha tanto le Alpi vere quanto l'Appennino in certi punti, la montagna Pistoiese eccetera. E già che sulle Alpi Apuane si vede il bianco, ma non è neve, perché sulle Alpi Apuane se c'è, c'è in inverno e ce n'è poca, ma sulle Alpi, quelle vere, ancora un po' di neve resta. Sì, è vero, il riscaldamento globale si sta sciogliendo ogni cosa, però almeno negli anni 80, che me lo ricordo io, si andava a sciare sui ghiacciai. Sono andata anche una volta, sai, d'estate. Sono andata anch'io, è stata una delusione immensa. Parti da valle che fa abbastanza caldo, però ti devi vestire perché per andare su in cima al ghiacciaio comunque devi avere la tenuta da sci. E poi le piste da sci sono tipo due o tre, perché più di tanto ha voglia ghiacciaio, ma insomma è pur sempre estate. Allora tutti gli sciatori accalcati, in realtà la maggior parte degli sciatori erano atleti, ragazzi che si allenavano per le gare. Penso. Quindi era tutto un paletto, c'erano proprio paletti da gara su tutte le piste. E io e mio amico eravamo lì a sciare, cioè, ma noi che ci facciamo qua? Vabbè, facciamo un po' di slalom pure noi. Però una pista, due piste, dopo sempre la solita, sempre il solito giro, è sempre il solito giro. Poi alle due dice vabbè, cioè uno pensa no, va a sciare come fa come d'inverno, che mangia, poi dopo continua a sciare. Invece alle due chiudeva tutto. La neve non regge, è pur sempre estate. E allora niente, alle due tutti accalcati verso la funivia, perché tu devi scendere a valle non potendo scendere con gli sci, perché la neve è limitata alla vetta, devi riprendere l'impianto per scendere a valle, e tutti scendono alla stessa ora, e insomma non lo so, è stata una bella esperienza ma da non ripetere. E allora abbiamo capito, montagna a Firenze significa Dolomiti, ma la montagna in estate non significa andare a sciare. Ringraziamo Laura per queste preziosissime dritte di sulla niente. Ferialità dei fiorentini. Grazie Laura. Di niente. alla prossima. E insomma, alla prossima fiorentinata, anche se siamo solo in ferie.